e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E buona giornata a tutti da Deborah Rosciani. Oggi chiudo la settimana da sola, ma Nicoletta ed io torneremo in coppia come sempre lunedì a partire dalle 10.30. Allora aiutatemi voi a mantenere alto il ritmo della puntata, peraltro proprio la parola al ritmo sarà quella centrale per la prima parte della nostra trasmissione. Scriveteci sui nostri social o su WhatsApp al 349-238-6666, siete sempre invitati ad intervenire in diretta sui temi del giorno all'800-24-00-24. E a proposito di ritmo, come vi anticipavo poco fa, oggi voglio parlarvi di un argomento che sta a cuore a me e anche alla nostra donna di cuore che oggi non c'è ma di cui spero di far bene le vesti. Parliamo infatti del ritmo del nostro cuore, che è un importantissimo indicatore per la nostra salute. L'importante però è che abbia un ritmo giusto, né troppo veloce né troppo lento, e che non si metta a fare i saltelli. Ne parliamo questa mattina e la saluto subito con la dottoressa Maddalena Lettino, responsabile dell'unità operativa di cardiologia presso l'Istituto Clinico Humanitas di Milano. Buongiorno dottoressa e benvenuta. Buongiorno, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie, le anticipo già, non so quanto le possa interessare, ma chissà che anche a casa sua non si paghi un mutuo, che nella seconda parte della trasmissione parleremo anche di questo argomento, che qualche sbalzo al cuore lo fa venire quando è tempo e il momento nel mese di pagare la rata, effettivamente un po' di fibrillazione ci viene. E tra l'altro a proposito di finanze e temi economici che fanno ballare, ieri certamente anche la riunione della Banca Centrale Europea ha fatto fibrillare la borsa. Oggi il quadro del mercato finanziario ci appare un po' più tranquillo, le borse europee sono ancora negative ma senza drammi, direi meno 0,16% il FTSE MIB a Piazza Affari, e abbiamo sotto i riflettori il caso Monte dei Paschi con la notizia che è arrivata ieri sera a mercati chiusi e l'avvicendamento ai vertici della banca, per la verità disponibilità all'avvicendamento che è stata data dall'amministratore delegato Fabrizio Viola. A questo punto è già partito il toto nomine per il nuovo AD. Oggi il titolo Monte dei Paschi, dopo la crescita di oltre 3 punti di ieri, frena di circa 0,5 punto percentuale. Ma di tutto questo parleremo dopo, adesso andiamo subito al nostro primo tema di oggi. Il cuore ha le dimensioni di un pugno chiuso e ha una forma simile ad una pera con la punta rivolta verso il basso. Il cuore è l'organo simbolo dell'amore, segue il ritmo delle emozioni. Oggi abbiamo particolarmente a cuore il nostro cuore perché domani, sabato 10 settembre, sarà la giornata mondiale contro la fibrillazione atriale, una patologia che colpisce 2 italiani adulti su 100 ma che è spesso sottodiagnosticata. E anche quando viene fatta la diagnosi, a questo si aggiunge un altro problema, perché si pensa che il cuore matto sia un fattore di rischio per l'infarto, trascurando invece che a rischiare di più è il cervello. Infatti la fibrillazione atriale è uno dei fattori di rischio dell'ictus e si stima, pensate, che circa un caso di ictus su 3, 1 su 3, quindi è un dato importante, sia dovuto a fibrillazione atriale. Dottoressa Lettino, allora approfittiamo subito della puntata di oggi per dare alcune indicazioni e fare alcune raccomandazioni che in alcuni casi addirittura, e non esageriamo, potrebbero salvare la vita. Allora, chi soffre di fibrillazione atriale non lo sa e quindi spesso non è curato come si deve. Chi deve stare particolarmente attento? Allora direi che ci sono i cosiddetti soggetti a rischio per la fibrillazione atriale, che poi sono una larga fetta della popolazione, sono tutti i pazienti ipertesi che potrebbero svilupparla in un qualche momento della loro vita, la grossa fetta dei pazienti diabetici che a loro volta costituiscono una discreta popolazione, quelli che hanno una qualche cardiopatia ma in questo caso è molto più facile che siano seguiti e quindi il riconoscimento dell'aritmia sia più precoce, e poi un modesto quantitativo di persone che non hanno di fatto nessun fattore di rischio e se ne ammalano lo stesso. Esistono delle cause scatenanti questo tipo di aritmia? Ahimè, devo dire che cause vere e proprie non ne sono mai state identificate. L'aritmia nasce in una camera del cuore che si chiama atrio ed è probabile quindi che una serie di alterazioni, che qualche volta procedono anche solo con l'invecchiamento, possano generare, diciamo, quello che noi chiamiamo il substrato dell'aritmia. Ci sono tanti fattori scatenanti, la pressione mal controllata, una condizione di particolare stress. Il patrimonio genetico, potrebbe esserci anche una predisposizione? Di fatto non è mai stato dimostrato che ci sia una familiarità. Però siccome c'è familiarità per il profilo di rischio, ecco che poi alla fine le due cose sono abbastanza collegate fra loro. Dottoressa Lettino, com'è bella l'immagine della camera del cuore. Che qualche ebbene volta così, ebbene così, ne abbiamo ben quattro. Certo. Lei prima mi chiedeva che cosa fare. Beh, una cosa veramente molto semplice, che il consiglio che noi diamo ormai a tutti i pazienti, ed è stata lanciata una campagna, devo dire, a livello mondiale. Devono riconoscere i sintomi, no? Mi pare. Devono in primo luogo. Soprattutto partire con la misurazione del polso. Lei mi dirà, ma come si fa? Beh, è molto semplice, basta sentire la pulsazione cardiaca sul proprio polso o eventualmente nell'angolo del collo, o ricordare al medico, al farmacista, quando si fanno misurare la pressione, ormai abbiamo diffuso la misurazione della pressione praticamente a tutti i livelli, di dare anche un'occhiata al battito cardiaco, quantomeno per dire se è regolare oppure no. Questa è una campagna di sensibilizzazione banale, semplice, ma che permette di riconoscere soprattutto i numerosissimi casi di fibrillazione atriale che di fatto non danno nessun sintomo, ma che sono altrettanto pericolosi per l'ictus, ahimè. Certo, e l'elemento che indica l'irregolarità appunto dei battiti, cioè come facciamo ad individuare una potenziale aritmia? Ecco, direi che quando il battito cardiaco è regolare viene sentito con una cadenza che è veramente ritmica come quella di uno strumento musicale, se posso mimarlo è un tan tan tan. Quando ci troviamo di fronte alla fibrillazione atriale il battito cardiaco va completamente per i fatti suoi, abbiamo qualche cosa del tipo tan tan tan tan tan tan, tan, quindi completamente irregolare, e questo è veramente facilmente riconoscibile ed è soltanto il primo passaggio. Poi naturalmente il paziente dovrebbe recarsi da un medico e poi partiranno delle valutazioni cardiologiche che consentiranno di arrivare a quello che diceva lei, la terapia soprattutto in prima ipotesi, in prima istanza, per la prevenzione dell'ictus, che è forse l'effetto più catastrofico che si può verificare nel corso di una fibrillazione. Allora, il cuore che sfarfalla, che rotola, possiamo identificare questa aritmia con tante immagini, il tuffo al cuore, però una attenzione particolare, insomma, Nicoletta mi insegna, dottoressa Lettino, che bisogna starla anche ad eventuali e possibili sintomi concomitanti, l'affanno, la mancanza di respiro, dubbio. Giusto? Non c'è dubbio, esatto. Il sintomo più caratteristico è lo sfarfallio, come lei ha detto, poi ci sono tanti altri sintomi che indirettamente riconducono a questa possibilità. L'affanno perché un paziente che ha la fibrillazione atriale non riesce a modificare la propria capacità respiratoria a seconda delle attività che affronta, ci possono essere sensazioni quindi di mancanza di respiro inusuale. Possono eventualmente manifestarsi anche, magari un po' più raramente, ma episodi di dolore toracico. Mi piace richiamare, sia per i pazienti che hanno già la fibrillazione atriale, sanno di averla, per controllare se tende a ritornare, sia per coloro che non l'hanno mai avuta, la possibilità di ricorrere poi anche a tanti strumenti sul web che permettono loro di riconoscere eventuali sintomi che si manifestano. Tanti portali ospedalieri, compreso quello di Humanitas, hanno delle sezioni dedicate ai pazienti, e poi ci sono siti più generali come quello per esempio di anticoagulazione.it, dove i pazienti possono eventualmente andare a vedere quali sono i sintomi della fibrillazione atriale, leggersi ciò che altri pazienti riportano. Questo ovvio aiuta moltissimo. Li riportiamo immediatamente noi questi siti sulle nostre pagine Facebook, in modo tale che i nostri ascoltatori le possano andare immediatamente a recuperare. Perfetto. E potranno appunto fruire di tutte le informazioni. Allora avvertiamo lo sfarfallio, il battito irregolare, ecco, attraverso la misurazione e il controllo del nostro polso. Dottoressa Lettino, se ci spaventiamo che cosa dobbiamo fare, ammettendo appunto che magari l'aritmia in questo momento sia particolarmente forte? Fermarci, andare certo subito da un medico, oppure non preoccuparci? Se magari... No, io direi, se l'aritmia è particolarmente forte, sentiamo lo sfarfallio, è normale recarsi all'osservazione medica in tempi rapidi, non sono i tempi dell'infarto e quindi non sono il più velocemente possibile. Sono però tempi entro alcune ore, entro una giornata, nelle quali dobbiamo cercare di farci vedere. Se avvertiamo la sola irregolarità e non abbiamo sintomi particolari, possiamo prenderci un pochino più di tempo, ma sto sempre parlando di uno o due giorni. Dobbiamo recarci da un medico perché, come si diceva prima, dobbiamo prima di tutto metterci al riparo dalle complicanze della fibrillazione atriale. La fibrillazione atriale non è un'aritmia mortale, non è un'aritmia di per sé pericolosa. Sono le sue complicanze che temiamo, e quindi è importante vedere un medico proprio per raggiungere la completezza, certo, del trattamento e metterci tranquilli. Esatto. Prima del traffico, velocemente, dottoressa Lettino, prima di salutarla, due domande di due ascoltatori. Un ascoltatore chiede: allora, intanto, la fibrillazione atriale è l'extrasistole? No, l'extrasistole è un battito irregolare, la fibrillazione atriale è un milione di battiti completamente irregolari. Un altro ascoltatore racconta: ho subito un'ablazione, che è credo la metodica con cui si prova a sistemare questo problema. La dico in gergo che non è tanto medico, me l'hai detto, me ne rendo conto, dottore Serettino, ma così mi perfetto. Faccio capire da tutti, ecco. Certo. Perché l'ascoltatore dice: avevo il mio cuore che era molto aritmico, ma una volta che si è cercato di rimediare a questo problema proprio con questa tecnica dell'ablazione, si è ancora a rischio ictus? Devo fare dei controlli? Chiede Alex. Allora, bisogna continuare a fare dei controlli e accertarsi dopo un intervallo di tempo congruo, quindi vuol dire mesi e qualche volta ci vuole un anno, che non ci siano più ritorni dell'aritmia. Quando si è ragionevolmente sicuri di questo, si può rivedere la protezione verso l'ictus. Finché c'è ancora una certa instabilità, cosa che si può verificare normalmente dopo l'ablazione, allora la protezione va mantenuta ancora per un discreto tempo. L'attività sportiva, l'attività fisica provano a porre un rimedio rispetto a questa patologia? Diciamo che non sono controindicate e che possono essere condotte in modo sereno quando l'aritmia è sufficientemente controllata e quindi prima di tutto affrontare l'aritmia e poi si può tornare a fare la propria attività fisica. Benissimo. Dottore Salettino, grazie per essere stata con noi. Le auguro una buona giornata. Noi adesso ci fermiamo, c'è il traffico e poi parleremo appunto di attività fisica, ma di un'attività fisica molto speciale che trova il crescente consenso anno dopo anno da parte di moltissimi italiani. Parleremo di ballo con il nostro esperto, anzi un'altra esperta. Vi aiuteremo a scegliere il ballo che fa per voi. Voi raccontateci intanto, se volete, qual è quello che avete più a cuore, visto che di cuore abbiamo parlato fino a questo momento, quello che preferite, quello che vi ha fatto battere il cuore perché magari in pista da ballo avete trovato anche la vostra anima gemella. A tra pochissimo. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna, Asiago 8-11 settembre. Vi presenta Cuore e Denari. Comodiamo il tango, ma per fortuna per una volta tanto non per parlare di tango bond e di risparmio tradito, ma per parlare di ballo, perché negli ultimi anni sempre più persone sono state ben contagiate, positivamente contagiate da questa passione. Valzer, mazurka, foxtrot, ma anche latinoamericani, per non parlare poi appunto del tango. Sono in tanti gli italiani pronti a scendere in pista e che magari proprio dopo questa estate del 2016 chissà che non si siano innamorati di qualche disciplina particolare proprio nelle scorse settimane, adesso abbiano deciso magari di farne così un'abitudine stabile per i prossimi mesi, per muoversi un po'. È spesso una scelta dettata dalla passione, dalla voglia di muoversi, ma anche semplicemente di divertirsi. Perché voi siete scesi in pista? Quale ballo batte nel vostro cuore? In linea con noi per parlare di tutto questo, per darvi anche consigli utili per iniziare, se siete un po' anche dei tronchi, perché qualche volta magari ci muove la passione ma non siamo tanto portati. Professoressa Beatrice Benelli, psicologa, autrice di Avanzi di Balera, storia e storie del mondo del ballo, edito dal Mulino. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti quanti. Allora, intanto sa che io sono la donna di Denari e subito devo dare l'aspetto sgradevole di questo argomento. Tante sale da ballo in Italia, naturalmente bisogna anche spendere un pochino, non solo per andare in discoteca il sabato sera, dove magari abbiamo forse una musica che non ci allieta tantissimo, ma ci sono ancora tante strutture tradizionali in Italia tantissimo frequentate. Se si opta invece per un vero e proprio corso di ballo da uno dei classici latinoamericani all'intramontabile tango argentino, il panorama è davvero vasto. I prezzi variano da pochi euro ad alcune decine di euro, naturalmente a seconda dell'abbonamento che si fa e dell'istruttore, del corso che si sceglie. Però, professoressa Benelli, mi sembra che sia un investimento che vale la pena fare. Assolutamente sì, in effetti è uno dei divertimenti comunque meno costosi rispetto a tanti altri, e poi è veramente impagabile il piacere di esibirsi, di apprendere cose nuove, di conoscere persone nuove, ambienti nuovi, che è un po' l'elemento fondamentale del ballo. Si può avere passione o meno, ma poi la passione può anche venire proprio quando si comincia a imparare si diventa via via più bravi. Infatti, tra l'altro c'è un aspetto molto interessante. Io stavo, mentre lei mi raccontava queste cose, facendo un rapido check degli amici attorno a me che sono più o meno appassionati, no, di qualche ballo, di qualche danza, e naturalmente mi sembra, così a occhio, che le donne abbiano un po' più di familiarità e di istinto immediato. Gli uomini hanno un'iniziale resistenza prima di iniziare, no? Però in realtà quando lo scoprono non mollano più. No? Qual è la differenza di attitudine rispetto al ballo, la differenza di genere, anzi, professoressa Benelli? Ma diciamo che le donne hanno comunque più familiarità con la gestione del corpo e anche con la esibizione in generale, no? L'abbigliamento, la cura, la moda, eccetera. E il ballo risponde un po' a questi requisiti. Gli uomini hanno un po' più di difficoltà, e anche perché nel ballo, diciamo, il ruolo dell'uomo è un po' più importante, per definizione è quello che guida e quindi deve poi esibirsi e uscire allo scoperto, per esempio invitando la donna, no? Quindi quindi la sua prestazione è sempre sotto i riflettori, per cui qualche volta forse il suo timore è quello prima di avvicinarsi. Effettivamente è così. Che cosa spinge, professoressa Benelli, le persone comuni, dopo una giornata di lavoro magari anche particolarmente impegnativo e stancante, a mettersi le scarpette invece che le pantofole? Ma è il fatto che intanto è appunto cambiare aria, cambiare atmosfera, fare qualche cosa, no? E la sfida del nuovo e del divertirsi poi in definitiva, quindi direi che è proprio una caratteristica fondamentale quella di cercare un benessere, anche perché quando sia a scuola di ballo, per esempio, sia in sala, ci si dimentica assolutamente di tutti i problemi possono esserci. È veramente, come dire, terapeutico forse più di tutto da questo punto di vista, ma il beneficio fisico è in dubbio. Allora però iniziamo un po' dall'ABC, ammettendo che ci siano all'ascolto, professoressa Benelli, delle persone che stanno accarezzando questa idea da un po' e hanno provato a guardarsi intorno in cerca di una sala da ballo idonea alle proprie caratteristiche, che però hanno anche la consapevolezza di non avere un'attitudine particolarmente spinta verso il ritmo e verso la danza, e si sentono un po' qualche volta anche un tronco d'albero. Allora, chi ha una condizione di questo tipo ma vuole cimentarsi e provare, da dove inizia? Io consiglierei una scuola di ballo, perché lì insegnano i fondamenti, non solo i passi tipici di ogni ballo, ma anche ad ascoltare la musica, a differenziare i vari tempi musicali, adeguarsi e seguirli, no, nel movimento. Quindi direi che la scuola è il primo passo. Poi non è obbligatorio, ci sono persone che vanno direttamente in pista, si buttano e magari non le definiremmo dei bravi ballerini, però ballano e si divertono, che poi è la cosa che conta più di tutti. E non, fanno movimento. E certo, non è necessario neanche essere particolarmente competitivi, anche se poi in realtà si scatena anche questo sentimento dentro questi ballerini provetti. C'è una notizia molto carina che arriva dall'Inghilterra, me l'ha lasciata Nicoletta, che si potrebbe riassumere proprio con il motto: non è mai troppo tardi, perché questo è probabilmente ciò che hanno pensato queste donne, un gruppo di donne over 50 che ha deciso di iscriversi alla Royal Academy di Danza a Londra, dando vita alle classi Cigni d'argento, un'occasione per realizzare un sogno d'infanzia, quello della danza classica probabilmente, ma più di tutto direi a questo punto della propria vita anagrafica, professoressa Benelli, l'opportunità per stare meglio. Assolutamente, diciamo che l'Inghilterra da questo punto di vista è maestra, e non è un caso che in Inghilterra ci sono tutti gli anni i campionati internazionali a Blackpool, e anche hanno un coraggio le inglesi, basti pensare a un film come Calendar Girls in cui queste signore di una certa età si spogliano per una causa appunto del paese in cui vivono, fino ad arrivare addirittura, se non mi ricordo male, a Las Vegas, Los Angeles, bellissimo, insomma, questa capacità di non tirarsi mai indietro. Infatti. Intanto c'è un ascoltatore che ci scrive spessissimo, il nostro Marco Fante di Picche, che dice che ama tango classico, Fox e Walter Lento, sono i suoi preferiti. Peraltro sul tango, e poi la saluto, professoressa Benelli, mi pare che ci siano delle dimostrazioni che sia proprio il ballo tipico a migliorare e a mantenere le funzioni cognitive. È vero, ci sono però due tipi di tango, quello argentino è molto diverso, ha delle caratteristiche particolari che comunque fanno, per definizione, fanno bene. Benissimo, e noi faremo una puntata solo sul tango. Grazie alla professoressa Benelli, ci fermiamo, giornale radio, e torniamo subito dopo. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Il mondo visto dai ragazzi. In questi mesi Radio 24 ha dato spazio alle voci di Radio Immaginaria, una web radio gestita da studenti delle scuole superiori di tutta Italia. L'appuntamento dal vivo è per il 10 e 11 settembre con la Team Parade a Castel Guelfo di Bologna. Un meeting sul lavoro spiegato dagli adolescenti. Ci sarà anche un evento speciale con il nostro Federico Taddia. Info su radio24.it. Cuore e denari. Sulla base delle nostre periodiche analisi della situazione economica e monetaria, abbiamo deciso di lasciare invariati i tassi di interesse. Continuiamo ad attenderci che rimangano su questo livello o anche inferiore per un prolungato periodo di tempo e ben oltre l'orizzonte del nostro programma di acquisti. Per ciò che riguarda le misure straordinarie di politica monetaria, confermiamo che l'ammontare mensile di acquisti da 80 miliardi continuerà fino al marzo 2017 o oltre, se necessario. Era il nostro Marione, Mario Draghi, numero uno della Banca Centrale Europea, quella Banca Centrale Europea che ieri, come avete sentito, ha lasciato i tassi fermi nell'Eurozona, anche se questa è stata solo una minima parte delle varie indicazioni date dal governatore appunto della BCE, che ha confermato questo quantitative easing fino a marzo 2017 o oltre se necessario. Non ha dato indicazioni su una eventuale variazione dell'importo dei titoli di Stato che vengono acquistati ogni mese. E questo è stato il punto che ieri ha un po' deluso la borsa, e anche oggi la borsa continua un po' a ragionare su tutto ciò. I listini sono poco mossi. In Europa Milano perde lo 0,02%. Il tema dei tassi di interesse è centrale in questo momento, con tante implicazioni. Voi lo sapete, ne parliamo spessissimo, in particolar modo il giovedì nel nostro spazio Investire Informati. Tassi di interesse perché rendono sempre meno i nostri risparmi, si cercano alternative più remunerative, ma è un'impresa difficilissima, anche perché se ce ne sono in giro richiedono naturalmente l'assunzione di un certo grado di rischio da parte del risparmiatore, punto che non sempre viene compreso fino in fondo. D'altro canto è anche vero che questa politica monetaria super espansiva ha reso i tassi di interesse applicati ai mutui così bassi che stiamo vivendo una stagione unica e irripetibile. Quindi, per chi si accinge a stipulare un mutuo ora, lo fa a condizioni incredibilmente vantaggiose. E allora ci chiediamo stamattina: è il momento giusto per comprare casa, per surrogare o rinegoziare il vecchio mutuo o finanziare una ristrutturazione? Insomma, è il momento del adesso o mai più? Ne parleremo con Roberto Anedda, direttore marketing di Mutui Online. Benvenuto. Grazie, buongiorno, ben ritrovati a tutti. E Vito Lops, collega del Sole 24 Ore, ha scritto Il Mutuo Perfetto, oggetto di un restyling, un aggiornamento proprio recente, autore anche di un blog di grande successo, L'economia della trasparenza. Insomma, sui tassi e i mutui sa tutto, tant'è vero che parlavamo a microfoni spenti dell'eventualità che una volta conclusa questa carriera di giornalista, chissà mai che tu non faccia il consulente per Mutui Online magari, o per qualche altra azienda. Vito, ciao, benvenuto. Buongiorno a tutti, ciao. Allora, 800 24 00 24, il numero verde a vostra totale disposizione se volete interagire con noi su questo argomento. Se di ritorno dalle vacanze avete già preso appuntamento con il direttore di banca per fare un preventivo del mutuo che vi serve per acquistare, ristrutturare, o se siete alla ricerca del mutuo migliore, uno ne state già pagando, quindi è il momento anche della surroga. Peraltro il mercato delle surroghe, Roberto Anedda, è quello che è stato in assoluto più vivace dall'inizio dell'anno, quindi magari ripartiamo da questo riepilogo della situazione. Per chi dice le banche hanno ripreso alla grande ad erogare mutui, in realtà ricordiamo che si tratta in gran parte di un mercato di sostituzione. Sì, è un mercato che insomma ormai da più di 2 anni si è dimostrato molto attivo, seguendo proprio questo calo continuativo fino a tassi mai visti prima, quindi ai minimi storici dei tassi stessi, che ha permesso a tutti coloro che avevano sottoscritto mutui in anni passati di trovarsi con condizioni migliorative. Poi in alcuni casi il miglioramento era leggero, quindi magari non valeva la pena, ma nella gran parte dei casi invece, proprio per i tassi così estremamente contenuti che mai prima si erano visti, e sostituendo il mutuo grazie alla surroga, che tra l'altro ricordiamo è un'operazione a costo zero per il cliente, quindi non ha nessun tipo di commissione o altri costi, è una procedura ormai standardizzata e semplificata, c'era la possibilità di risparmiare veramente una quantità notevole di interessi, tenendo presente che si parla ormai di passare a tassi fissi, se rimaniamo sui fissi, in modo da tenersi anche tranquilli da quello che potrebbe essere uno sviluppo futuro nel lungo termine dei tassi, addirittura sotto il 2% ormai, contro una media dei tassi fissi che in anni passati, anche in anni più lontani, ad andar bene era del 5, se non addirittura del 6 e forse anche, andando indietro nel tempo, anche oltre. Quindi risparmiare 4-5 punti percentuali su un mutuo, anche se lo si sta pagando da parecchio tempo, quindi anche addirittura da 10 anni, porta a dei risparmi nell'ordine di decine di migliaia di euro, e per chi invece avesse fatto il mutuo pochi anni fa, diciamo durante l'ultima crisi, ma poi ormai bisognerebbe numerarle queste crisi, perché è strutturale, è una condizione strutturale dal 2007 al 2008. Dal 2007 in poi, cioè, non le contiamo neanche più, ma diciamo, fermandoci a quella del 2011-2012, quando gli spread erano risaliti notevolmente, anche lì chi ha fatto i mutui, perché c'è stato chi ha fatto mutui in quegli anni, ha fatto mutui anche sopra il 6%. E avendo quindi ancora tutto il mutuo praticamente da rimborsare, lì i risparmi sono nell'ordine dei 100.000 euro e oltre, che devo dire che credo che molti tuttora, nonostante ci sia stato questo grande afflusso di suono, non si siano resi conto, ma perché la gente, un po' come dicevi anche tu nell'introduzione, non si rende conto in termini finanziari a volte le dinamiche economiche che cosa comportino, o in termini di investimento o anche in termini di risparmi a volte, perché si è abituati a cifre molto più piccole, oppure non ci si interessa perché lo si vede come un mondo troppo distante. E in questo caso la raccomandazione per tutti coloro che hanno un mutuo è davvero: andate a rispolverare la vostra cartellina del mutuo, per quanto vecchia. Provate invece a fare, se ancora conti. La percezione che sia quel monolite che deve rimanere lì, hai iniziato a pagare, da lì non devi spostarti più. L'importante è portare, come dire, realizzare l'obiettivo mensile, che è quello di riuscire a pagare la rata. Invece anche del mutuo, oggi come oggi, soprattutto visto che è più facile, si può fare, si deve fare, direi, non straordinaria, ma proprio, Vito, ordinaria amministrazione, ordinaria manutenzione, anzi. Tra l'altro, Vito, volevo ripartire con te, proprio alla luce di tutto il ragionamento, ricordando le vicende finanziarie recenti, ribadendo appunto tutto il ragionamento che ha fatto Roberto Anedda, quindi analizzando la situazione di oggi, noi esageriamo quando parliamo di situazione irripetibile o no? Ah, sicuramente dal punto di vista dei tassi nominali è una situazione irripetibile, perché abbiamo variabili sotto l'1% e fissi sotto il 2%, in un contesto in cui il mercato immobiliare viene da anni in cui i prezzi si sono moderati, sono scesi a seconda delle varie città, ma sono decisamente più bassi rispetto al 2007-2008, e quindi sommando queste due variabili emerge un momento assolutamente favorevole per in questo momento indebitarsi per l'acquisto di una casa, sia nell'ottica appunto di viverci, ma anche nell'ottica potenziale, che è ancora una nicchia in Italia, di investire. Investire attraverso la leva del mutuo e poi metterla a reddito. Anche perché il terzo elemento riguarda le banche, che dopo anni un po' più guardinghe quest'anno, ma anche dall'anno scorso, hanno ripreso a erogare, anche perché per loro è terminato quella parentesi molto favorevole di, tra virgolette, fare arbitraggio sui titoli di Stato. Quindi, avendo perso quella possibilità di avere dei guadagni sui titoli di Stato, che hanno tassi molto molto bassi quando non negativi, le banche hanno trovato nuovi margini nuovamente nell'attività tradizionale, che è quella, esatto, appunto di erogare prestiti, solo che sono molto più attente rispetto al passato e distinguono i prezzi in base ai clienti. I clienti che chiedono il 50% del mutuo sul valore dell'immobile hanno dei forti sconti, i clienti che ne chiedono l'80% giustamente, mi viene da dire, hanno degli spread un po' più alti. Beh, d'altronde è anche corretto, anche perché più si richiede il mutuo alto rispetto al valore della casa, più si rischia di rifare gli stessi errori e di ricadere nelle stesse situazioni rischiose di qualche anno fa, no, Roberto Anedda? Anche il vostro osservatorio di mutuo online ci dà la stessa differenza, soprattutto in questo momento. In che percentuale rispetto al valore della casa si chiede l'importo del mutuo? La distribuzione della richiesta di mutuo e anche delle erogazioni in base alla percentuale del valore dell'immobile è abbastanza variegata, perché troviamo quote abbastanza simili, sia addirittura per punti sotto il 30% del valore della casa, perché c'è chi di suo magari ha già il capitale o semplicemente ha venduto un immobile e ne compra un altro perché cambia casa, cambia la famiglia. Però magari si tiene un po' di liquidità e una parte preferisce finanziarla. Come anche invece coloro che arrivano a finanziare l'80% e in alcuni casi anche oltre, perché alcune banche hanno ripreso a dare oltre questo sono poche e ovviamente costano ancora di più. E come dice correttamente Vito, a seconda della percentuale che si vuole finanziare, gli spread cambiano leggermente. In tutto questo il vantaggio è che i tassi, anche gli spread e la competizione tra banche è così forte che anche questi spread più elevati, diciamo così, rimangono comunque molto contenuti rispetto a quelli storici di una volta. Per cui anziché spread all'1 o addirittura sotto l'1, nel caso dell'80% del valore dell'immobile arrivo, sempre parlando delle migliori offerte, all'1,30, all'1,40, quindi comunque qualche decimo di punto, ma che non sposta la convenienza, diciamo così, o il costo contenuto del mutuo rispetto al vantaggio di avere un capitale così corposo rispetto al valore dell'immobile. E quindi fate un check-up del vostro mutuo, se vi siete dimenticati il piano di ammortamento in qualche cassetto di casa o il vecchio contratto, andatelo a ricontrollare. Se vedete che magari lo spread che pagate è nettamente superiore rispetto a quelli che stiamo indicando questa mattina, guardate, potete andare a fare immediatamente una rinegoziazione con il direttore di banca, quindi tormentateli un po', perché sicuramente potete trarre vantaggio da questa situazione molto vantaggiosa e favorevole. Intanto subito gli ascoltatori hanno colto il nostro invito all'800240024. Adesso faremo anche un po' qualche simulazione con Roberto Anedda, che ci ha portato naturalmente dei mutui tipo, insomma, magari chiedendo adesso 100.000 euro che cosa ci può offrire il sistema bancario, sia per quello che riguarda un mutuo a tasso variabile che per quello che riguarda un mutuo a tasso fisso, e in modo tale anche in questo caso di poter fare un confronto rispetto alle offerte che ci siamo sentiti fare se siamo andati individualmente a chiedere dei preventivi. Intanto però due ascoltatori, allora comincerei con una signora, perché noi siamo sempre molto galanti, a cuore denari. Elena da Roma, benvenuta. Buongiorno, senta, la mia domanda è semplicissima, io mi riferisco alla rinegoziazione del mutuo, sono una dipendente, adesso in pensione, dipendente di un istituto di credito, ora in pensione, e ho acquistato all'epoca quando lavoravo la casa che era di proprietà dell'istituto. E i dipendenti tutto in casa ha fatto, Elena, quindi insomma avrà avuto un trattamento proprio da regina. Il trattamento da regina è che il tasso all'epoca, ed è identico adesso, è quasi al 5%, prima erano ancora un pochino più alti. Quindi diciamo che il trattamento c'è stato almeno di un punto e mezzo. Io l'ho acquistata nel 2005. La domanda è questa: io non posso rinegoziare questo mutuo? La banca per i dipendenti ha la procedura completamente bloccata, non lo fa. Ho capito. È una cosa lecita? Allora, diciamo, credo di sì, perché non ha nessun obbligo la banca di rinegoziare, è chiaro che viene mossa solo da ragioni di opportunità. Detto questo, Elena, nulla osta che lei non si faccia un giro presso Vito, qualche altra banca, e se ne vada. Sì, perché non penso che la possano tenere legata, ecco, quello sì che sarebbe illegale. A questo punto all'ascoltatrice non resta che la surroga, quindi si può cambiare banca, perché infatti, come ricordavi tu, la rinegoziazione resta una facoltà della banca, visto che rispecchia un contratto sottoscritto per tanti anni, quindi quando la banca non cede alla rinegoziazione non resta che la strada della surroga, che come dicevamo prima anche con Anedda, è che le banche sono molto propense in questo momento ad accogliere nuovi clienti con le surroghe, quindi pagare in questo momento un 5% è uno sproposito, e deve l'ascoltatrice immediatamente già da oggi applicare, rivolgersi a nuove banche e cercare la surroga migliore. Allora, mamma mia, come vorrei sapere il nome di questa banca, però non sarò così cattiva fino in fondo, poi chiamo Elena in privato e me lo faccio raccontare. Luca da Lucca, buongiorno. Buongiorno a lei. Eccoci volevo qua. Fare dunque, io volevo chiedere all'esperto, nonostante che io abbia già surrogato il mio mutuo, i tassi attuali sono estremamente più bassi, per cui volevo sapere se ho qualche chance di poter risurrogare eventualmente o ricontrattare quello che è il tasso del mio mutuo. Luca, allora c'è Roberto Anedda che mi faceva accenno di voler sapere quando ha surrogato la prima volta. Due anni fa. Allora, Luca, lei ha questo problema che rischia di essere un surrogatore seriale, una nuova tipologia praticamente di sottoscrittori di mutui coniata da Vito Lopes nei suoi scritti sull'argomento. Detto questo, Roberto Anedda, È molto frequente, lo notate anche voi magari dai vostri osservatori, che chi ha già provato, chi ha già avuto con successo un'operazione di surroga in passato, ci riprovi di nuovo nel giro di pochi anni? Soprattutto nel momento attuale, proprio per il fatto che negli ultimi due anni c'è stata questa ulteriore accelerazione al ribasso dei tassi rispetto a quelli che già sembravano due anni fa dei tassi estremamente appetibili. Infatti Luca fece bene al tempo a surrogare, perché già in quel momento di mercato si sembrava essersi lasciati indietro la crisi precedente, certo. Si fosse tornati a tassi addirittura più bassi, e quindi rispetto ai mutui accesi prima c'era la possibilità di un risparmio. Quello che non ci si aspettava era questo calo verticale continuo dei tassi, e in tanti, devo dire, si trovano adesso nella situazione di Luca. C'è da dire che diverse banche, valutando anch'esse l'eccezionalità della situazione, vedono la scelta eventuale di Luca non come appunto una serialità pericolosa, perché poi il vero problema del surrogatore, diciamo così, seriale, come giustamente lo definisce Vito, è che poi la banca si trovi nel dubbio di un cliente che appena che i tassi scendono ulteriormente passa a un altro istituto ulteriore. Ecco, diciamo che questo scenario dovrebbe teoricamente essersi chiuso. Insomma, ecco, qui ormai, più in basso è vero di che così anche Draghi ha detto si potrebbe scendere ancora, però parliamo di piccole discese, eccetera. Effettivamente invece, pur avendo surrogato due anni fa, il differenziale, adesso poi al di là del mutuo specifico che potrà aver surrogato Luca, è comunque corposo, quindi dà la possibilità di risparmiare notevolmente. Insomma, chi deve pagare la rata mensile è giusto che cerchi di ottimizzarlo ulteriormente. Il check-up, infatti, tutti dovrebbero fare come fa Luca, cioè stare attenti effettivamente a come sta andando il proprio mutuo, anche se lo si è acceso oppure rinegoziato o surrogato. Insomma, l'idea fa. È, secondo lei, quindi, che comunque qualcuno disposto ad accettare questo nuovo cliente. Esatto, Luca, intanto si vada a fare un preventivo su mutui online, e poi insomma in tutta la grigliata di banche disponibili nelle simulazioni appunto che fanno, probabilmente qualcuna che magari le dà retta. Cioè, detto questo, Vito, è chiaro, lui dice ma sono lo faccio, non lo faccio, mi accetteranno, che chiedere è lecito. Assolutamente, assolutamente va fatto, perché negli ultimi due anni infatti si è creato molto spazio per migliorare il tasso di interesse, e le banche in effetti sono più propense, visto che in effetti c'è davvero poco ormai ancora da rosicchiare al ribasso. Quando una banca ingloba un cliente, in media spende circa 1.500-2.000 euro di costi fissi, e se questo poi dopo qualche mese se ne va, e quindi diventando un surrogatore seriale, appunto, certo, la banca ci rimette. Però nelle condizioni attuali è difficile che un surrogatore del 2016 nel 2017 surrogherà ancora ulteriormente. Allora, fra un po' abbiamo i mercati. Intanto vedo che ci state scrivendo in tanti, mi incuriosisce un po' questa segnalazione di un ascoltatore che dice: a marzo 2016, quindi poco fa, ho acceso un mutuo per l'acquisto casa con tasso variabile. Mi sembra completamente assurdo, al 3,6%, pago una rata di 704 euro. Ora, qua il tema è che il tasso variabile è applicato all'Euribor, gli Euribor sono negativi, per cui è tutto spread qua, immagino, e quindi siamo proprio assolutamente in un territorio di poco competitivo, deve... Sicuramente. Cioè, ma o evidentemente l'ascoltatore al di là dello spread particolare, è andato in un'unica banca e lì è andato, o aveva... Un cap? Che cosa può essere successo in questo caso? Magari un... No, qui ho uno spread veramente elevatissimo. Che è praticamente una del 3,6%. Sì, esatto. Una non applicazione della negatività dell'Euribor. Ecco, che ulteriormente, un altro tema che affrontiamo dopo i mercati. Oppure dei cosiddetti tassi floor, cioè un tasso al di sotto del quale, chissà perché, comunque la banca stabiliva da contratto, purtroppo sottoscritto dal cliente, che il tasso non poteva scendere, o addirittura potrebbe essere un variabile con cap, che anche lì scelto in maniera malaugurata. Detto questo, però, è un tasso assolutamente fuori mercato, esatto, questo complessivo. Vito, tu che ne pensi? Sembra un tasso di un prestito per un'impresa più che per una famiglia. Eccolo là, insomma. Sì, e quindi, ecco, ci faccia un po' sapere, non è che ha scambiato un prestito, magari un prestito, appunto un finanziamento con un'altra finalità? No, mutuo per l'acquisto casa, mi dice lui. Perché però anche magari... i mutui liquidità hanno questi tassi. Esatto, magari un rimporto piccolo, lui ritiene di aver fatto un mutuo, in realtà si tratta di un prestito, Vito. Siamo fuori mercato, bisogna assolutamente rivederlo. Ci scriva qualche dettaglio, intanto noi siamo pronti ad andare a raccontare invece ai nostri amici che ci seguono da casa cosa succede oggi in borsa. Sono pronti anche tanti altri ascoltatori, c'è Agostino da Roma, c'è Gonzalo dalla provincia di Milano, in tanti che ci state scrivendo anche su WhatsApp al 349-238-6666, molti chiedono per esempio anche se la surroga per importi intorno ai 50.000 euro è possibile farla. Adesso ne parleremo, intanto ci sentiamo tra pochissimo con i mercati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Cuore e Denari. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo, ho acceso il mutuo. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo. A me proprio l'utilizzo del termine accendere il mutuo non mi è mai piaciuto, eppure c'è pure la canzone. No, Roberto Anedda, vero? Ma perché? Un esposto parlamentare. Esatto, parlamentare per cambiare. Lo metterei insieme a giocare in borsa e poi che cos'altro? Adesso me ne farò venire in mente di altri concetti della finanza. Vito, dobbiamo cominciare a cambiare il linguaggio. Perché sennò proprio la gente non ci sta dentro a tutto questo. Dobbiamo rendere tutto più semplice, dobbiamo far capire quello che ci accade intorno utilizzando dei concetti facilmente trasferibili. Allora, il tema di oggi è il mutuo, un tema che invece gli italiani capiscono molto bene perché amano comprare casa, essere proprietari. Poi negli ultimi anni ovviamente tante vicende li hanno portati qualche volta in realtà a procrastinare magari questa scelta di acquisto della casa e quindi di indebitarsi per la casa dei propri sogni. Il mutuo oggi è più che mai sotto i riflettori perché abbiamo delle condizioni di mercato che sono assolutamente eccezionali nel vero senso del termine, nel senso che sono destinate probabilmente a mantenersi così ancora a lungo, ma in futuro a non ripetersi ancora una volta. Condizioni di vantaggio sui tassi di interesse che sono veramente incredibili. Allora, che cosa stanno proponendo le banche? Stiamo cercando di capirlo questa mattina e soprattutto come fare se si ha magari in corso un mutuo che si sta rimborsando già da tempo a surrogare, perché il tema è questo. Molti ancora non hanno la consapevolezza del fatto che magari stanno pagando un mutuo un po' troppo oneroso e che questo è assolutamente il momento giusto per cambiare. 800 24 00 24 il numero verde a vostra disposizione, potete anche scriverci SMS o WhatsApp al 349 238 6666. Andiamo di nuovo alle domande degli ascoltatori a cui rispondono Vito Lo e Roberto Anedda. Agostino da Roma, ben trovato anche a lei. Buongiorno. Eccoci. La mia domanda, allora, io ho acquistato un immobile non ad uso abitativo nel 2012 e mi ho richiesto il mutuo per questo immobile. Dopodiché, visto che i tassi si sono abbassati, ho provato a richiedere una surroga ad altri istituti, ma nessuno mi ha approvato la mia richiesta, in quanto dicono appunto che l'immobile non è ad uso abitativo. Volevo sapere appunto e quindi la surroga è valida solamente per immobili ad uso abitativo. Cioè, senta Agostino, qual è l'ultima volta che ha provato a chiedere se potevano surrogarle il finanziamento? Pochi mesi fa. Allora, è possibile, auspicabile una risposta auspicabile? È plausibile una risposta di questo tipo dal sistema bancario? È un laboratorio, da quello che capisco, quello di Agostino, quindi non una prima casa. Roberto Anedda, sì, è possibile? Sì, la legge stessa che aveva, come dire, riformato e migliorato la surroga anni fa prevedeva che fosse un'opzione limitata alla prima casa o comunque all'abitativo, all'abitativo. E quindi è possibile. Quindi cosa può fare? Qui l'unica sarebbe estinguere magari il mutuo vecchio, però preventivamente verificare se un'altra banca sarebbe disponibile ad aprirgli un mutuo, un altro tipo di finanziamento con immobile già di suo possesso. E allora 800 24 00 24, numero verde, ve l'ho già ricordato tante altre volte. Mi fai, Vito, un punto della situazione, visto che stiamo continuando a citare i parametri più importanti che dobbiamo conoscere per sottoscrivere appunto un mutuo. Allora, quali sono i tassi di mercato di riferimento del mutuo a tasso variabile e i tassi di mercato di riferimento per il mutuo a tasso fisso e a che livello si trovano in questo momento? Sì, allora, per il tasso variabile abbiamo per la stragrande maggioranza dei casi l'indice Euribor, che può essere a 1, 3, 6, 12 mesi. Le banche utilizzano solitamente il tasso Euribor a un mese o tre mesi. In questo momento sono sia il tasso Euribor a un mese che il tre mesi negativi e sono sotto addirittura meno 0,35-36%. Quindi è una soglia importante e difficilmente andranno sotto il meno 0,4, questo perché si sono agganciati a un altro tasso che è deciso dalla BCE e si chiama tasso sui depositi, che è a meno 0,4, quindi solitamente l'Euribor non può superare questo altro tasso, quindi in questo momento sappiamo che l'Euribor si attesta in questa soglia e dovrebbe rimanere intorno a questo livello fino a quando dalla BCE non arrivino modifiche su quell'altro tasso. Mi fermo subito a questo punto. conto. Questo significa che se io sto in questo momento rimborsando un mutuo a tasso variabile, agganciato all'Euribor a 3 mesi, che in questo momento è negativo, significa che se ci pago uno spread dell'1,5%, il tasso complessivo che deve essere applicato a questo mutuo deve essere lo spread con l'Euribor negativo, quindi sì. 1,5 meno 0,335 a seconda, quindi 1,2. Sì, assolutamente, ecco. Sì, ci sono ancora, ecco, delle banche che non sottraggono l'Euribor. E bisogna dirglielo, negativo. Infatti. Glielo ha detto anche la Banca d'Italia espressamente qualche mese. In effetti è molto aumentato il numero delle banche che lo sottraggono, ma c'è ancora qualche banca che non lo fa. Come la mia, a cui ho dovuto chiederlo. E bisogna appunto verificare questo aspetto, proprio mensilmente, se si sta appunto pagando una rata in cui la rata deve essere inferiore allo spread. Cioè la banca può anche dire non voglio farlo e magari si scopre che c'è una clausola nel contratto di cui non eravamo a conoscenza? Difficilmente per i mutui stipulati prima del 2015 c'è questa clausola, perché le banche sono state colte alla sprovvista dal fatto che l'Euribor è sceso sotto zero e non lo avevano previsto. Le prime clausole di questo punto di vista sono spuntate, guarda caso, a febbraio 2015, quando appunto per la prima volta nella storia l'Euribor è sceso sotto zero. Certo. E quindi alcune banche si sono tutelate inserendo una clausola per cui il tasso finale in ogni caso non possa essere inferiore allo spread. Nonostante questo, poi è intervenuta la Banca d'Italia dicendo: attenzione, fatelo, se l'Euribor è negativo, e siccome adesso appunto parliamo di livelli importanti di negatività, meno 0,3, quindi 30 punti base, a questo punto non lasciatevi condizionare da queste percentuali che sentite, perché nella rata c'è differenza. Adesso parliamo anche del tasso fisso, però Anedda, le banche che intermediate voi, per esempio, vi risulta che tutte facilmente abbiano rimodulato i piani di ammortamento dei clienti rivedendo appunto anche l'Euribor negativo? Diciamo che la gran parte tuttora, appunto, sia nei nuovi mutui che nei mutui precedenti, applicavano la somma algebrica. Quello che non si è riusciti a capire è se, dato che in alcuni casi anche per lo stesso istituto c'erano situazioni in cui questa somma veniva effettuata correttamente, per cui l'Euribor negativo veniva sottratto, e altri clienti della stessa banca, magari in un'altra parte, in un'altra regione, si trovavano. Quindi lì bisognerebbe, certo, entrare dentro le procedure della singola banca per capire perché alcune volte sì, alcune volte no. Diciamo che nella gran parte dei casi il problema non si è verificato, e quindi è stata applicata la corretta sottrazione dell'Euribor negativo allo spread. Però proprio per il fatto che non è una cosa generalizzata, l'unica, come diceva bene Vito poco fa, è verificare, fare due conti. A volte dall'estratto conto, dall'estratto rata, diciamo così, della banca non è semplice capirlo, perché a volte il tasso viene espresso con una percentuale mensile, che quindi non è il tasso annuale. Insomma, bisogna chiedere, se non si ha un documento bancario in cui risulta chiaramente qual è il tasso effettivo applicato sulla singola rata, è bene andare in banca e chiedere, cioè, scusate, mi dite che calcolo di tasso mi state facendo, l'Euribor me lo state sottraendo o me lo state sottraendo. Ottimo. Gonzalo dalla provincia di Milano, eccoci a lei. Sì, buongiorno e grazie mille per la trasmissione, molto utile e molto opportuna. Perfetto, grazie. Io sono al lavoro, documenti in mano non ce li ho. Quindi li prende stasera, Gonzalo, adesso non è che le dobbiamo mettere tutta questa memoria, ansia. A memoria sarò un po' generico. Il mio mutuo è stato erogato aprile 2006. Sì, 2006. Adesso attualmente pago una rata di 547 euro, di cui 430 erotti capitale, 100 qualcosa di interessi. La durata interessi complessiva qual è? 30 anni. Quindi ha già fatto 10 anni. Ho già fatto 10 anni. Gliene mancano 20. Ho fatto 2 o 3 chiamate fino a 3 mesi fa per la possibilità della subroga del mutuo e non ho avuto un riscontro positivo con 2 o 3 banche. Perché? Cosa le dicono? Evasive. Evasive. Non sono stati chiari. Subito mi hanno fatto capire degli ostacoli. E siccome, non essendo una persona istruita in queste cose qua, sono sincero, ho lasciato stare. Adesso che sto sentendo la vostra trasmissione... Certo, le abbiamo messo la pulce nell'orecchio, Gonzalo, e certo. Lei deve, come sì. dire, le è venuta voglia e giustamente fa di riprovarci. Allora, intanto bisognerebbe capire se effettivamente si tratta di un mutuo. Allora, mi stavo facendo un calcolo al volo, 547 euro di rata, 400, quanto ha detto, di capitale che sta rimborsando? Sui 430. 430, quindi oltre 100 euro di... tasso, di... Esatto, un centinaio... Gli mancano 20 anni, un centinaio di euro di interessi al mese, potremmo starci, secondo me però è un variabile questo. Adesso Gonzalo ce l'abbiamo ancora? Almeno è un variabile. Sì, è un variabile. Sì, sì, un variabile. Allora, beh, certamente su questa quota qua qualche cosina potrebbe spuntarla, secondo me il tema è capire perché gli obiettano e non lo ricevono. Diciamo che, come dire, concettualmente già come pregiudizio la banca subito la porta non te la spalanca quando ti presenti per una rinegoziazione, una surroga. Quindi forse Gonzalo non ha insistito a sufficienza. Questo può essere il primo punto. E diciamo che la durata residua consente ampio margine di miglioramento, perché nel 2006 i tassi erano molto più alti. Sì. Mi viene da pensare che a questo punto le banche o non hanno valutato con attenzione il caso, oppure mettono in discussione la solvibilità dell'ascoltatore, che magari nel frattempo può aver cambiato lavoro e capacità reddituale. E allo stesso tempo l'altra ipotesi potrebbe essere anche che nel frattempo l'immobile si sia pesantemente svalutato e quindi il rapporto tra finanziamento e valore dell'immobile, paradossalmente, nonostante siano passati 10 anni, sia andato oltre l'80%, e magari le banche a cui si è rivolto non concedono mutui oltre l'80%. Mi pare che però non siano arrivati a questa fase della trattativa con Gonzalo, mi pare che gli abbiano detto no molto prima, però grazie per averci indicato anche questo aspetto che è importante, quindi fate attenzione a voler entrare in banca e come dire, a rivendicare in assoluto il diritto di una rinegoziazione, di una surroga del mutuo. Potrebbe anche essere cambiato vistosamente il valore della vostra abitazione, per cui la banca non ha nessun interesse ad accogliervi, per cui valutiamo anche questo aspetto. Roberto Anedda, ci vogliamo... Quello che mi viene da dire, approfitto un attimo dei vostri microfoni per fare un po' il cicero pro domo sua, ma nel senso che sia la risposta di Vito che poi tutti i quesiti che sia oggi che nelle altre trasmissioni vengono fuori dagli ascoltatori e pongono il problema fondamentale del rapporto del singolo consumatore o del singolo mutuatario con la banca, che abbiamo visto che per un motivo o per l'altro è sempre problematico, perché... E il cliente è sempre la parte debole, perché non è abbastanza informato, non ha le conoscenze adeguate né tecniche generali del mercato, certo, né specifiche del prodotto, non si è in grado di capire fino a che punto la banca può dire una cosa o meno. Questa simmetria viene sempre utilizzata a vantaggio della banca. Mi permetto qui, ma appunto è incidentale, che non lo si fa per fare pubblicità, ma cioè spiegare un servizio come quello di Mutui Online, di cui forse poi non parliamo mai alla fine, è che al di là del confrontare semplicemente le offerte in modo da capire in modo semplice, automatico e immediato soprattutto, quali siano le migliori offerte, quanto costi un mutuo, eccetera, e quello che non si vede è tutto il servizio dietro, cioè richiedere, diciamo così, un mutuo tramite un servizio come quello di Mutui Online, ce ne sono poi anche altri, permette, almeno nel nostro caso, perché in altri casi no, di accedere poi automaticamente a una consulenza gratuita, anche questa, da parte proprio dei nostri consulenti, che prendono in carico il cliente, ne gestiscono la pratica e... Dato che la gran parte dei clienti appunto non ha le conoscenze per tarare al meglio la propria richiesta rispetto alle proprie esigenze, potete spiegare sia i punti che potrebbero essere potenzialmente critici di una trattativa o quelli che potrebbero invece essere utilizzati per... E soprattutto noi stessi ci interfacciamo con le banche per conto del cliente o in aiuto al cliente, in supporto al cliente, gli permettiamo, come nel caso di Gonzalo o di Elena o di Luca, di innanzitutto indirizzarlo di volta in volta al meglio e non incidentalmente, altrimenti uno deve andare a fare il giro delle 10 banche o delle 7 chiese e bisogna prendere 4 giorni di ferie. Invece uno sta in casa, c'è uno che lo fa per te, tutto gratuito. E purtroppo ormai anche il mercato dei mutui è un mercato complesso e è come per i finanziamenti, se si fa da soli si rischiano. Però insomma, Gonzalo, questi sono gli suggerimenti pratici che sono arrivati a lei. Intanto faccia una considerazione sul valore della casa rispetto al mutuo che sta pagando e poi insista, non si senta così fragile nella trattativa, insista un po' di più, perché questi qua sono sempre un po' resti a trattare su questo argomento. Il traffico tra poco. Vi aspettiamo a Made in Malga, evento nazionale dei formaggi di montagna, Asiago, 8-11 settembre. Vi presenta... Cuore e denari. Allora, Matteo da Treviso chiede: per chi stipula un mutuo prima casa, ora conviene il tasso fisso o il variabile? Quasi che insomma non avessimo detto niente per tutta la trasmissione. Matteo, non si può rispondere così, non è bianco o nero. Bisogna fare un check-up complessivo della situazione personale, della situazione di mercato. Bisogna vedere lei in che condizioni si trova, se è in grado adesso di sopportare magari un mutuo un po' più costoso, perché quello fisso è un pochino più costoso anche se il tasso è vantaggioso. In prospettiva, se lei ha bisogno di indebitarsi per 10 anni, è ovvio che le conviene un variabile, perché qua rimaniamo in condizioni di vantaggio ancora a lungo, di tassi bassi. Ma se lei ha bisogno di indebitarsi per 30 anni, in prospettiva i tassi aumenteranno. Quanta tolleranza ha ad un aumento della rata? Dipende qual è la rata di partenza. Matteo, non è così semplice, non si può dare una risposta in questo modo, non faremo un buon lavoro per i nostri ascoltatori. Un altro ne sentiamo intanto, prima di andare, anzi 6 minuti per la chiusura, qua è volata anche questa mattina. Angela da Roma, il suo caso ci ha colpito tanto. Ah, meno male. Pronto? Buongiorno. Buongiorno Deborah, grazie per l'opportunità. Allora, io praticamente acquistai la casa del Ministero del Tesoro, perché io ci abitavo, no? E questa banca e questo Ministero del Tesoro ci obbligò a prendere il mutuo con la BHV di Bolzano, praticamente. E io praticamente... Quante ne scopriamo stamattina? No, io lo dico così almeno ci capiamo la meglio. Banca che ha fatto comprare l'appartamento della banca, il mutuo della banca... No, un caso precedente, Angela. Cioè, il Ministero del Tesoro, perché in effetti le condizioni erano ottime, ha stipulato con la BHV praticamente il contratto, e praticamente ci obbligò. Comunque mi andò pure bene. Però volevo sapere, io sono quasi arrivata alla scadenza, cioè il prossimo anno, ad aprile del 2017, proprio il giorno del mio compleanno, finisco di pagare il mutuo. Però tutti questi anni io pago praticamente 535 euro al mese. Allora dico, siccome manco tasso fisso variabile, che mutuo aveva? Di 5,35, pago praticamente la mia rata mensile di 535 euro. Sì, ma ci interessa il tasso e capire quando l'ha stipulato, in che anno. Oddio, dovrei prendere il foglio. Appunto, detto questo, comunque il tema è che lei fra 6 mesi lo ha finito, Angela. Ha questo traguardo davanti a sé, che è il mio sogno, il nostro sogno, il sogno di tutti. Comunque il tema è che Angela voleva chiedere, mi conviene andare a chiedere di rinegoziare, peraltro questo istituto di credito non ho... Allora, noi ci siamo guardati tutti e tre, Angela, ci siamo detti, ma guardi, si goda questa situazione che ormai sta chiudendo, Vito. Oltretutto, come fa? Cioè, paga solamente il capitale, i tassi di interesse non li paga più ormai, della quota interesse. Appunto, dei 535 euro, come la stessa ascoltatrice potrà constatare guardando l'ammortamento. Credo che sarà 530 capitale e 5 euro interessi ormai. Più o meno, visto che mancano pochissimi mesi, quindi qualora non fosse così, ma non credo, le converrebbe, ma non assolutamente, ormai gli interessi che doveva pagare la signora li ha pagati, probabilmente avrebbe dovuto, tra virgolette, svegliarsi anche 5-6 anni fa, perché una surroga 5-6 anni fa le avrebbe potuto consentire di risparmiare qualcosina. Quindi adesso, detto che può sempre andare a chiedere, perché magari lei dice voglio risparmiare da qui ad aprile 50-60 euro, perché gli devo regalare a loro, e può certamente farlo, Anedda, però certo, insomma, concettualmente non è che proprio sia un'operazione. No, poi infatti questo è giusto, vale, ma la pena, si pone poi un altro problema, che sicuramente anche il debito residuo è talmente ridotto che difficilmente si potrebbe trovare una banca disposta a fare un mutuo di surroga, perché stiamo parlando di un mutuo che non durerebbe un anno o due. L'unica cosa che può fare è stressare quel direttore e rinegoziare lì. Sì, esatto. Infatti, da qui ad aprile sono 6 mesi, sono praticamente 3.000 euro, 4.000 euro di mutuo residuo. Angela, ma chi glielo... Cioè, non è esatto, infatti questo è l'aspetto fondamentale. Cioè, uno dei limiti, diciamo così, della surroga è che quando ci si trova con importi di capitale residui ridotti, e per ridotti parliamo sotto i 40-50 mila euro, comincia a diventare complicato trovare una banca che trovi conveniente fare l'operazione. Chiudiamo in bellezza, perché chiudiamo con Andrea da Milano, che vuole intervenire portando il punto di vista delle banche. Lui in direttore dice che abbiamo detto un sacco di inesattezze. E allora, Andrea, ovviamente senza litigare, rimarremo amici lo stesso. Buongiorno intanto e benvenuto. E allora, quanti bussano alla sua porta per surrogare, rinegoziare, e come li accogliete voi? Andrea, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Abbiamo pochi minuti, grazie. Un sacco di inesattezze, no. Ecco, qualcuna, qualcuna sì, in particolare mi ha fatto un po' sorridere quando è stato detto che in generale le banche non ricevono volentieri un cliente che richiede la rinegoziazione del mutuo. Ovviamente banche ce ne sono tante, mi pare che ci siano in Italia circa 300.000 dipendenti bancari, quindi sicuramente capiterà anche quello. Certo. Non è, a mio giudizio, non è la norma. Come qualcuno ha detto, c'è tanta concorrenza nel nostro settore e quindi spiace di più un cliente che magari attiva il meccanismo della surroga senza aver prima chiesto alla propria banca a rinegoziare. Una rinegoziazione. È chiaro che se la propria banca è sorda o cieca sull'argomento, è giusto, come avete consigliato, che approfitti di questo momento storico di tassi così bassi, ma dire che generalmente le banche non ricevono i propri clienti quando è che bisogna insistere, lì Andrea, io guardi, le parlo. Allora, Gonzalo è stato in difficoltà, io ho dovuto chiedere, scrivere una lettera per fare il ricalcolo del piano di ammortamento. Se facciamo un censimento, qua abbiamo purtroppo più testimonianze, diciamo, nel senso contrario a quello che dice lei. È anche vero che però mi sono sentita anche dire da gente che conosco: ma vieni qua da me che te lo prendo io, perché per noi il valore è conquistare un nuovo cliente. Di questo le devo dare certamente atto. Abbiamo 30 secondi, Vito. No, sarebbe anche bello che le banche, anche senza il cliente che vada di sua volontà, bravo, quando un cliente sta pagando il 5%, in questo momento lo chiamano e gli dicono: guarda, il tasso è spropositato, te lo rinegozio. Ovviamente non è nell'interesse della banca, però in questo caso il cliente che non si muove è un cliente che non è informato e la banca in questo momento ci guadagna parecchio. 1-1 noi e Andrea. Comunque grazie Andrea per aver chiamato, perché apprezziamo moltissimo anche questa disponibilità invece di molti direttori di banca. Sappiamo che ce ne sono moltissimi assolutamente seri e molto responsabili verso la clientela. Grazie anche a Roberto Nedda. Grazie prossima a voi, Roberto. Un saluto, a presto. Abbiamo terminato, buon weekend, torniamo lunedì.